La psicologia for Dummy detiene casi importanti di pura normalità. La normalità è proprio data dalla pazzia e la follia di queste persone. Una persona che non sa stare al mondo è una persona che deve esistere nella società. Queste persone non sanno nemmeno come bere un bicchiere d'acqua e devono stare nella società. Capisci? Queste persone ascoltano un vicino che dice: se mi butto dal terrazzo le mie ossa saranno più forti. Loro che fanno? Capisci? Loro si buttano sotto al terrazzo e rinforzano le loro ossa. Trauma? Anche, ma serve per costruire una società degna della Psychology for Dummy. Capitolo Sofferenza astrale bendata 48357/BBS in doppia bis.